«Potresti guardare da un'altra parte», le disse cupamente. «Sai bene che quei ballerini non valgono la corda sulla quale sarebbe augurabile che salissero per rompersi l'osso del collo. E sono capacissimi poi d'andare in giro a vantarsi, a dire che li hai guardati. Del resto è ora che tu vada in camerino a cambiarti, non senti che ti chiamano? Farai tardi, come al solito». Tre signori, tre giornalisti, vedendo il cipiglio di Saint-Lieu, s'avvicinarono divertiti per sentire che cosa diceva. E poiché dall'altra parte stavano montando una scena, ce li ritrovammo appiccicati. «Oh, ma lo riconosco, è un mio amico!» esclamò Rachel fissando il ballerino. «Ma guardatelo, guardate che bravo con quelle mani che danzano come tutto il resto del corpo!» Il ballerino girò la testa verso di lei, mentre la sua figura umana traspariva sotto il silfo che si esercitava ad essere. La grigia e dritta gelatina dei suoi occhi tremò, scintillò fra le ciglia indurite dipinte e nella faccia appastellata di rosso un sorriso gli allungò la bocca da entrambi i lati. Poi, per far divertire la ragazza, come una cantante che, per compiacenza, accenni a mezza bocca l'aria in cui sa, perché glielo abbiamo detto, che l'ammiriamo, si mise a ripetere quel movimento delle mani scimmiottando se stesso con la finezza di un imitatore e l'allegria di un bambino. «Oh, ma è deliziosa questa trovata di imitarsi da solo!» proruppe Rachel battendo le mani. «Ti scongiuro, piccola mia!» le disse Saint-Lieu in tono desolato. «Non dare spettacolo in questo modo! Mi fai morire! Una parola ancora e ti giuro che me ne vado senza accompagnarti in camerino! Su, non fare la cattiva! E tu non restare qui, in mezzo a tutto questo fumo di sigaro, ti farà male!» aggiunse volgendosi verso di me con la sollecitudine che sempre mi dimostrava sin da Balbec. «Te ne vai? Che gioia! T'avverto, non tornerò più!» «Ah, non oso sperarlo!» «Sta a sentire, sai che ti ho promesso la collana se ti comportavi bene, ma visto che mi tratti così...» «Ah, ecco una cosa che, venendo da te, non mi stupisce!» «Mi avevi fatto una promessa, dovevo immaginare che non l'avresti mantenuta. Vuoi farmi pesare il tuo denaro, ma io non sono interessata come te. Me ne infischio della tua collana. Me la regalerà qualcun altro.» «Non te la può regalare nessun altro, perché l'ho prenotata io da Boucheron e ho la sua parola che la venderà solo a me.» «Perfetto, hai voluto ricattarmi e preso tutte le precauzioni del caso. È proprio come dicono. Marsant, mater semita, buon sangue non mente», replicò Rachel, tirando fuori una vecchia etimologia che si fondava su un errore grossolano, perché semita significa sentiero e non già semita, ma che i nazionalisti applicavano a Saint-Lieu per quelle sue vedute dreyfusiste che peraltro gli derivavano dall'attrice. Rachel, poi, era la meno autorizzata a trattare da ebrea Madame de Mersant, cui gli etnografi del bel mondo non sarebbero riusciti a trovare, d'ebraico, nient'altro che la sua parentela con i Lévi Mirepoix. «Ma non finirà qui, credimi. Una parola data in queste condizioni non ha nessun valore. Sei stato sleale con me. Boucheron verrà a saperlo e quanto alla sua collana gliela pagheranno il doppio. Avrai presto mie notizie, sta tranquillo.» Robert aveva mille volte ragione, ma le circostanze sono sempre così aggrovigliate che chi ha mille volte ragione può anche una volta aver avuto torto. Ed io non potei fare a meno di ricordare la frase spiacevole e tuttavia innocente che Saint-Lieu si era lasciato sfuggire a Balbec. «In questo modo la tengo in pugno.» «Hai frainteso quello che ti ho detto della collana. La mia non era una promessa formale. Visto che tu fai di tutto perché io ti lasci, è naturalissimo, mi sembra, che non te la regali. Non capisco quale slealtà tu ci veda o in che senso sarei interessato. E nessuno può accusarmi di far pesare il mio denaro, semmai dico sempre che sono un poveraccio senza un quattrino. Fai male a prenderla così, piccina mia. Interessato io? Ma se il mio unico interesse sei tu.» «Sì, sì, vai pure avanti», lo interruppe ironicamente Rachel, abbozzando il gesto di chi si accarezza la barba. e girandosi verso il ballerino. «È davvero straordinario con quelle mani! Io che sono una donna non riuscirei a fare quello che fa lui!» E additandogli l'espressione convulsa di Robert, aggiunse sottovoce: «Guarda come soffre!» In uno slancio momentaneo di crudeltà sadica, che del resto mal si conciliava con i suoi veri sentimenti per Saint-Lieu. «Senti, per l'ultima volta, ti giuro che fra una settimana potrai fare qualsiasi cosa, potrai farti venire tutti i rimorsi del mondo. Io non tornerò più, la misura è colma, sta attenta, è irrevocabile, un giorno te ne pentirai, ma sarà troppo tardi». Forse era sincero, e la tortura del lasciarla gli sembrava meno atroce di quella del restarle accanto in simili condizioni. «Ma, piccolo mio», aggiunse rivolgendosi a me, «non startene lì, ti dico, ti verrà la tosse». Gli indicai lo sfondo che mi impediva di spostarmi. Saint-Lieu si toccò leggermente il cappello e disse al giornalista: «Signore, fatemi la cortesia di spegnere quel sigaro, il fumo fa male al mio amico». Senza aspettarlo, la sua amante si era avviata verso il camerino e voltandosi: «Fanno così anche con le donne quelle piccole mani?» buttò là il ballerino dal fondo del teatro con voce artificiosamente melodiosa e innocente da ingenua. «Sembri una donna anche tu. Penso che ci si potrebbe intendere molto bene con te una mia amica». «Non è vietato fumare, che io sappia. Chi è malato non ha che da starsene a casa», disse il giornalista. Il ballerino sorrise misteriosamente all'attrice. «Oh, non dire niente, mi fa impazzire», gli gridò lei. «Ne combineremo di belle». «Comunque, signore, non siete molto gentile», disse Saint-Lieu al giornalista, sempre in un tono garbato e soave di pura constatazione, come di uno che, retrospettivamente, giudichi ormai chiuso un incidente. Nello stesso istante, vidi Saint-Lieu alzare verticalmente il braccio sopra la testa, come se facesse segno a qualcuno fuori dalla mia visuale o come un direttore d'orchestra, e di fatto, senza transizione più sensibile di quella con cui, in una sinfonia o in un balletto, un ritmo violento rimpiazza a un semplice cenno d'archetto un andante grazioso, dopo le parole cortesi appena pronunciate, la sua mano s'abbatté in un sonoro ceffone sulla guancia del giornalista. Adesso che, alle cadenzate conversazioni dei diplomatici, alle ridenti arti della pace, era succeduto lo slancio furioso della guerra, non mi sarei troppo stupito, poiché percossa chiama percossa, di vedere i contendenti dibattersi nel proprio sangue. Ma quello che non riuscivo a capire, simile in questo alle persone per le quali è poco corretto che fra due paesi scoppi un conflitto quando ancora non si è discusso che di una rettifica di confine, o che un malato muoia mentre si parlava soltanto di un ingrossamento del fegato, non riuscivo a capire come se Liup avesse potuto far seguire, a parole concernenti la valutazione di una sfumatura di cortesia, un gesto che non ne scaturiva in alcun modo, che se non preannunciavano affatto il gesto di quel braccio alzato in dispregio non soltanto del diritto delle genti, ma del principio di casualità per generazione spontanea di collera, quel gesto creato ex nihilo. Fortunatamente il giornalista, che era impallidito vacillando per la violenza del colpo, ebbe un attimo di esitazione e non reagì. Quanto agli amici, uno si era affrettato a voltare la testa, scrutando con attenzione verso le quinte qualcuno che evidentemente non c'era. Il secondo finse che gli fosse entrato nell'occhio un granello di polvere e si mise a pizzicarsi la palpebra facendo smorfie di dolore. E il terzo era sgattaiolato via esclamando: «Mio Dio, credo che stiano per alzare il sipario, non troveremo più i nostri posti!» Avrei voluto parlare con Saint-Lieu, ma era così saturo d'indignazione contro il ballerino che essa aveva finito con l'aderire esattamente alla superficie delle sue pupille e, da dentro, gli tendeva le guance come un'intelaiatura, di modo che la sua agitazione interiore si traduceva in una totale rigidità esteriore. Non aveva certo il rilassamento, l'elasticità necessaria ad ascoltarmi, tantomeno a rispondermi. Gli amici del giornalista, vedendo che era tutto finito, tornarono, ancora tremanti, accanto a lui. Ma, vergognandosi di averlo abbandonato, volevano a tutti i costi persuaderlo che loro non si erano accorti di nulla. Si dilungavano, così, uno sulla polvere nell'occhio, l'altro sul falso allarme concernente la ripresa dello spettacolo, il terzo sulla straordinaria somiglianza tra suo fratello e una persona che aveva visto passare. E non gli risparmiarono neppure un certo malumore per non aver egli condiviso le loro emozioni. «Come? Non ti ha impressionato? Allora non ci vedi!» «Insomma, siete tutti dei vigliacchi», borbottò il giornalista schiaffeggiato. Contraddicendo la finzione adottata, in virtù della quale avrebbero dovuto, ma non ci pensarono, aver l'aria di non comprendere che cosa volesse dire, quelli replicarono con una frase di prammatica in circostanze del genere. Adesso te la prendi con noi? Via, controllati, non perdere le staffe. Avevo capito quel mattino, davanti ai peri in fiore, su quale illusione si reggesse l'amore di Robert per Rachel Candiseigneur. Ma non meno lucidamente mi rendevo conto di quanto ci fosse, viceversa, di reale nelle sofferenze che da quell'amore germinavano. A poco, il dolore che stava provando da un'ora, pur senza cessare, si ritrasse, si ritirò dentro di lui e una zona elastica e disponibile comparve nei suoi occhi. Lasciammo insieme il teatro e dapprima camminammo per un po'. Indugiai brevemente a un angolo di Avenue Gabriel da dove, un tempo, vedevo spesso arrivare Gilbert. Dopo aver cercato per qualche istante di rievocare quelle lontane impressioni, stavo per raggiungere Saint-Lieu a passo di ginnastica quando vidi che un signore abbastanza malvestito gli parlava, mi parve quasi a tu per tu. Ne dedussi che fosse un amico personale di Robert. Nel frattempo diedero l'impressione di avvicinarsi ancora di più. A un tratto, come la comparsa in cielo di un fenomeno astrale, vidi dei corpi ovoidali assumere con rapidità vertiginosa tutte le posizioni possibili, componendo davanti a Saint-Lieu un'instabile costellazione. Scagliati come da una fionda, mi parvero non meno di 7. Non erano, invece, che i 2 pugni di Saint-Lieu, moltiplicati dalla loro velocità di spostamento in quell'insieme apparentemente ideale e decorativo. In realtà, quel fuoco d'artificio era una semplice scarica di botte somministrata da Saint-Lieu e il suo carattere aggressivo, piuttosto che estetico, mi fu rivelato innanzitutto dall'aspetto del signore mediocremente vestito, il quale parve perdere in un sol colpo qualsiasi contegno, una mascella e una notevole quantità di sangue. A quanti si avvicinavano chiedendo cosa fosse successo, fornì delle spiegazioni menzogniere, poi girò la testa e vedendo Saint-Lieu allontanarsi definitivamente per tornare da me, rimase a guardarlo con rancore e prostrazione, ma niente affatto furioso. Lo era invece Saint-Lieu, benché non gli fosse capitato nulla, e i suoi occhi lampeggiavano ancora di collera quando mi raggiunse. L'incidente non aveva alcun rapporto, come avevo creduto, con quello degli schiaffi a teatro. Si trattava di un passante focoso che, vedendo in Saint-Lieu il bel militare che era, gli aveva fatto delle proposte. Il mio amico non si capacitava dell'audacia di quella gentaglia che non aspettava nemmeno più le ombre della notte per uscire allo scoperto e manifestò, parlando delle proposte ricevute, la stessa indignazione con cui i giornali riferiscono di una rapina a mano armata compiuta, in pieno giorno, in un quartiere centrale di Parigi. Il signore preso a pugni era tuttavia scusabile almeno per questo. Una sorta di piano inclinato accosta il desiderio al piacere con tale rapidità che la semplice bellezza appare già come un consenso. Ora, che Saint-Lieu fosse bello non era discutibile. Ricevere una simile scarica di pugni comporta, per uomini della razza di quello che aveva appena abbordato Saint-Lieu, il vantaggio di indurli a riflettere con serietà. Troppo fugacemente, tuttavia, perché possano emendarsi e sfuggire a conseguenze giudiziarie. E così, sebbene Saint-Lieu avesse impartito la sua lezione senza pensarci troppo, tutte le lezioni di quel genere, anche quando collaborano con la legge, non ottengono l'effetto di normalizzare i costumi. Questi incidenti, e segnatamente quello che più lo preoccupava, dovettero ispirare a Robert il desiderio di starsene un po' solo. Quasi subito, infatti, propose che ci separassimo e che io mi recassi per conto mio da Madame de Villeparisis. Mi avrebbe raggiunto lì, ma preferiva non presentarsi assieme a me perché lo si potesse ritenere appena arrivato a Parigi e non si immaginasse che, invece, avevamo già passato in compagnia buona parte del pomeriggio.